Capitolo 140. I figli di Ippocoonte. Eracle decise di attaccare Sparta e di punire i figli di Ippocoonte. Non soltanto essi si erano rifiutati di purificarlo dopo la morte di Ifito, schierandosi contro di lui agli ordini di Neleo, ma avevano altresì assassinato il suo amico Eono. Accadde infatti che mentre Eono, figlio di Licinio, che aveva accompagnato Eracle a Sparta, passeggiava per la città nei pressi del palazzo di Ippocoonte, un enorme cane molosso lo assalì. Per difendersi, Eono lanciò un sasso che colpì il cane al muso. I figli di Ippocoonte balzarono allora fuori dal palazzo e percossero Eono con bastoni nodosi. Eracle accorse in aiuto di Eono dall'altro capo della strada, ma giunse troppo tardi. Eono era ormai morente ed Eracle, ferito alla coscia e al palmo della mano, si rifugiò nel santuario di Demetra Eleusina presso il monte Taigeto, dove Asclepio gli offrì un nascondiglio e sanò le sue ferite. Riunito un piccolo esercito, Eracle raggiunse Tegea in Arcadia e colà pregò Cefeo, figlio di Aleo, di unirsi a lui con i suoi 20 figli. Dapprima Cefeo rifiutò, non si azzardava infatti a lasciare Tegea senza difesa, ma Eracle, cui Atena aveva donato una ciocca dei capelli della Gorgone in un'urna di bronzo, la offrì alla figlia di Cefeo, Erope. Se la città fosse stata attaccata, le disse, essa doveva esporre per 3 volte sulle mura quella ciocca, voltando le spalle al nemico che subito si sarebbe dato alla fuga. Gli eventi dimostrarono tuttavia che Erope non aveva bisogno di quel talismano. Così Cefeo si unì alla spedizione contro Sparta, nel corso della quale, per mala sorte, egli perì con 17 dei suoi figli. Taluni dicono che anche Ificle fu ucciso, ma più probabilmente si trattava dell'argonauta Etolo, dallo stesso nome, e non del figlio di Anfitrione. L'esercito di Eracle subì altre perdite, mentre tra gli Spartani caddero Ippocoonte e i suoi 12 figli, con numerosi altri uomini di alto rango, e la loro città fu conquistata d'assalto. Eracle allora rimise sul trono Tindario, a patto che il regno passasse poi ai propri discendenti. Dal momento che Era inesplicabilmente non aveva insediato Eracle nel corso di quella campagna, egli le edificò un tempio a Sparta e le sacrificò capre perché non disponeva di altre vittime. Ecco perché gli Spartani sono gli unici greci che hanno dato ad Era l'appellativo di mangiatrice di capre e le offrono quegli animali in sacrificio. Eracle innalzò inoltre un tempio ad Atena dai giusti meriti e, lungo la strada di Terapne, un tempio ad Asclepio Cotileo che ricorda la ferita ricevuta nel palmo della mano. A Tegea, un santuario detto il comune focolare degli Arcadi, è famoso per la statua di Eracle con una ferita alla coscia. Qui il mito di Eracle si perde nella saga e si ricorre a uno pseudomito per spiegare anomalie come quella di Era, divoratrice di capre, Asclepio del palmo della mano, Eracle dalla coscia ferita, nonché il fatto che Tegea rimanesse per lungo tempo immune dalle conquiste nemiche. Ma le invasate seguaci di Era avevano un tempo divorato Zagreo, Zeus e Dioniso sotto forma di capra. La statua di Asclepio probabilmente reggeva erbe medicinali nel cavo della mano. Eracle fu forse ferito alla coscia da un cinghiale, e può darsi che i tegeati esponessero una testa di gorgone sulle porte della città come talismano profilattico. Assaltare una città così protetta equivaleva, infatti, a violare la vergine dea Atena, una superstizione rispettata anche dagli ateniesi. Ogni qualvolta Eracle consegna una città a un Acheo, a un Etolo, a un Siciliano o a un Pelasgico, perché passi poi ai suoi discendenti, la leggenda tende a giustificare una più tarda conquista dei Dori.